Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Di che cosa parleremo oggi? Innanzitutto parleremo di terremoto, andremo sulla parte più puramente economica, per così dire, di quello che è successo. Non vi faremo mancare, come è naturale, un aggiornamento di cronaca. Stiamo cercando di rintracciare qualche rappresentante del settore turistico della provincia di Perugia. Norcia è stata ferita profondamente, ve l'abbiamo raccontato, vi abbiamo detto anche nei nostri GR, nei nostri giornali di radio, che cosa è successo, e nei lunghi speciali che abbiamo dedicato al sisma di ieri vi abbiamo raccontato che cosa è successo. E però adesso si presenta un problema nuovo, che è quello di affrontare il futuro, oltre ovviamente al tema della gestione delle persone che non possono rientrare nelle loro case. Alcuni di loro vorrebbero rimanere nelle tende, là a due passi, ma evidentemente non è possibile, perché tra poco arriverà la neve, arriverà comunque, se non arriverà la neve arriverà il freddo e dovranno necessariamente essere spostati. C'è un settore economico, quello del turismo, che è particolarmente importante per quell'area dell'Umbria, che è profondamente ferito non solo nelle sue strutture, ma anche nella paura che si è instillata nei turisti. Molti hanno lasciato strutture alberghiere pur lontane da quell'area e pur non lesionate, esattamente per questo motivo. Dall'altra parte c'è la zona della quale in questo momento si sta parlando un po' meno, che è la provincia di Macerata. Provincia di Macerata che ha, e quindi siamo nelle Marche, che ha una vocazione un po' più prettamente industriale, anche se ha un settore turistico abbastanza sviluppato anch'essa, e che là appunto vive da questo punto di vista i suoi problemi, che sono dei problemi ovviamente che derivano dal lungo portato della crisi, da una situazione infrastrutturale non facile che viene peggiorata evidentemente dal sisma. E questo sarà il primo tema che affronteremo, rimanendo quindi in linea con l'informazione che Radio 24 vi sta dando da due giorni, da ieri mattina alle 7:40, quando questa scossa 6.5 sulla scala Richter ha colpito nuovamente il centro Italia. Ci occuperemo di Stati Uniti. Siamo circa ad una settimana dalle elezioni e andremo a cercare di fare un'analisi col nostro Mario Platero in diretta da New York, un po' anche sui programmi economici dei due candidati, che cosa ci si attende, a quali settori parlano, per così dire, anche della società americana. Ma ovviamente commenteremo anche i dati sulla crescita americana che sono stati diffusi nella giornata di venerdì e che nella giornata di venerdì non abbiamo avuto il tempo di commentare e di raccontarvi. È una crescita migliore delle attese, il dato che è arrivato dagli Stati Uniti nella giornata di venerdì ci racconta questo, una crescita migliore delle attese, dove si registra qualche segnale positivo in arrivo dagli investimenti delle aziende, un po' meno dai consumi. Sono dei dati, a dir la verità, ambivalenti. C'è qualche analista che dice: attenzione, la media della crescita americana negli ultimi anni, quello che vediamo in questo momento, una media molto bassa per la crescita americana, le cose non vanno bene, come può apparire dal dato pur positivo che abbiamo visto appunto nella giornata di venerdì. Ci occuperemo poi di manovra. Allora, le due cose si mescolano naturalmente con tutto il tema del terremoto, del sisma, perché come vi ha raccontato anche GR24, in questi minuti vengono diffuse delle posizioni pur informali da parte di Bruxelles, per così dire piuttosto velenose, nei confronti del Presidente del Consiglio e dell'atteggiamento in generale del governo italiano. Sono dichiarazioni da Bruxelles che ricordano come in realtà appunto le spese per il sisma siano normalmente scorporate dal calcolo del deficit, e in generale un'insoddisfazione per la risposta arrivata dall'Italia alla lettera nella quale Bruxelles chiedeva qualche chiarimento. Vedremo come questa cosa andrà a finire. Dall'altra parte abbiamo anche le dichiarazioni che arrivano da Berlino, che sono più tranquillizzanti sotto questo aspetto, e dicono: non è il momento di pensare al deficit, è il momento di pensare a ricostruire. Viene espressa vicinanza all'Italia, vedremo quanto poi questa vicinanza si esprimerà poi fattivamente in sede europea. Ma al di là di questo, toccheremo più strettamente le questioni fiscali che riguardano la manovra. Come ogni anno arriva la manovra, arrivano una serie di novità fiscali. Queste novità fiscali sono suddivise tra un decreto, che poi è quello che sostanzialmente abolisce Equitalia e fa tante altre cose, come vi abbiamo raccontato, e poi c'è tutta la parte che c'è dentro la manovra e anche le prospettive che vengono date per il futuro. Oggi c'è un ampio spazio sul Sole 24 Ore dedicato a questo. Ne parleremo col vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula, che in merito a questo, in merito alla strategia fiscale che emerge da questa manovra e da questo decreto fiscale, cercherà di darci qualche chiarimento e anche un'analisi. I mercati stanno peggiorando negli ultimi minuti. Il FTSE MIB cede l'1,06%, il FTSE Share lo 0,95%, Parigi lo 0,77%, Francoforte va meglio, meno 0,15%, Londra perde mezzo punto percentuale. Per quanto riguarda l'America, abbiamo un andamento positivo, anche se il Dow Jones è appena sopra la parità, più 0,04%, lo Standard & Poor's 500 guadagna lo 0,22%. Per quanto riguarda i singoli titoli, va ancora bene ST Microelectronics, anche oggi più 3,09%, Fiat Chrysler più 0,91%, A2A più 0,89%, Terna più 0,86%, e Brembo più 0,81%. In fondo all'ISIN oggi troviamo Monte dei Paschi che cede il 6,74%, tra l'altro è stata sospesa al ribasso, meglio per eccesso di volatilità, Mediobanca che cede il 4,5%, Unicredit il 3,6%, Popolare di Milano il 3,5%. Per questo si spiega l'andamento di Milano, che è peggiore delle altre piazze finanziarie europee, perché ve l'abbiamo raccontato spesso e ve lo diciamo sempre: il peso che hanno sul nostro listino, che ha sul nostro listino il settore bancario, è molto forte, e quindi quando va male il settore bancario i listini milanesi vanno particolarmente male. 349-238-6666 per i vostri SMS. Le notizie in breve di oggi. Allora, innanzitutto un ringraziamento agli ascoltatori che salutano, che mi hanno sentito in diretta ieri da Norcia, dove mi trovavo come inviato di Radio 24, dove sono andato perché semplicemente mi trovavo in zona, e poi oggi sono tornato. Tra l'altro sentiremo una voce che abbiamo raccolto da like, che ieri non siamo riusciti a farvi sentire nei nostri speciali, ed è appunto la voce di un albergatore che esprime proprio questa preoccupazione. Dice: attenzione, perché adesso qua rischia di non venirci più nessuno, ma comunque ci arriveremo tra un attimo. Oro in rialzo a $1,274 l'oncia, meno 0,3%. Per quanto riguarda il petrolio abbiamo un netto calo. Il WTI con consegna a dicembre, meno 2,65%, a $47,4 l'oncia. Il Brent in calo del 3,08%, sempre consegna a dicembre, a 47,47 dollari al barile. Per quanto riguarda il Brent, a $48,18 al barile. E qua continua un po' il gioco dell'OPEC, dell'organizzazione dei paesi produttori, nei quali si fanno delle dichiarazioni che non sono mai conclusive. Il Mohamed Barkindo, che è il segretario generale dell'organizzazione, dice: la commissione che si è riunita venerdì, pur non avendo raggiunto un accordo sul taglio delle quote, ha fatto significativi progressi. Qua comunque intanto siamo ai minimi da un mese per il greggio.

meno 0,7% su base annua, e che indicano anche qua una tendenza inflazionistica, chiaramente. Abbiamo anche i dati sulla produzione industriale, diffusi in questo caso dal centro studi di Confindustria, che rileva un incremento dello 0,7% in ottobre su settembre, quando era stata stimata una variazione di meno 1,9% su agosto. E questo il quadro dai dati. Sulla manovra torneremo più avanti, intanto andiamo a parlare di terremoto. Ed eccoci qua. I fatti li conoscete: ieri alle 7:40, magnitudo 6.5, la più forte dopo il terremoto in Irpinia nel 1980, con epicentro appena a nord di Norcia. Notte trascorsa in auto, nelle strutture di accoglienza. La voglia di rimanere, anche comprensibile, la voglia di rimanere vicini alle proprie case, per quanto distrutte, per quanto abbattute, per quanto lesionate. Però la necessità di spostare queste persone, che pure vogliono rimanere vicine alle proprie case, almeno per il momento, perché il freddo non consente di mettere tende, di gestire il tutto con le tende. Vi diamo conto qua, tra l'altro, anche del numero solidale della Protezione Civile, attivato di nuovo, il 45500, a sostegno delle popolazioni colpite, inviando un SMS o effettuando una chiamata alla linea fissa è possibile donare 2 euro per l'emergenza immediata. In questi minuti dovrebbe essere iniziato da poco il Consiglio dei Ministri straordinario per una prima valutazione dei danni e soprattutto per un primo stanziamento, chiaramente. Saluto Gianluca Pesarini, che è presidente di Confindustria Macerata. Buongiorno presidente, benvenuto, buonasera anzi. Buon pomeriggio a lei, buonasera. Allora, eccoci qua, verremo da lei tra un attimo, come già dicevo agli ascoltatori, che sono a quelli che erano in ascolto fin dall'inizio. Stiamo anche cercando di rintracciare qualcuno sul lato umbro, e in particolare gli albergatori, perché quella è una zona altamente turistica e vogliamo capire un po' come stanno andando le cose, perché ci arrivano notizie di cancellazioni di prenotazioni anche in luoghi piuttosto lontani dal sisma. Con lei invece vogliamo fare la parte di Macerata e la provincia di Macerata, che è una vocazione anche più prettamente industriale, se vogliamo, per certi aspetti. Comunque ci arriveremo tra un attimo, le chiedo di attendere un attimo in linea, perché abbiamo la nostra Raffaella Calandra, che oggi è stata a Castelluccio di Norcia. Per chi vuole la sentite in effetto giorno ampiamente, abbiamo fatto dei racconti di quello che ha trovato. Adesso sta ritornando, come dire, verso l'altra parte dell'Umbria, tra Norcia e poi Spoleto, dove anche a Spoleto ci sono stati dei danni, per avere un quadro più di cronaca della situazione. Raffaella, eccoci, buonasera. Buonasera Simone, a te e ai nostri ascoltatori. Allora, vai. Io ho appena attraversato proprio tutta la Val Nerina, appunto tornando da Castelluccio di Norcia verso, come dicevi, Norcia e Spoleto, e devo dire è proprio una successione di piccoli borghi che sono in gran parte distrutti. Laddove vedi, visto che appunto stiamo parlando di focus economia, quindi questo è uno degli aspetti più interessanti, laddove ti chiedi quale futuro possa esserci proprio per questi borghi, perché ci sono, al di là di Castelluccio, che come abbiamo raccontato è praticamente interamente distrutta, non esiste una casa che è rimasta integra e sono tutte completamente accasciate su se stesse le case. Ecco, in questo paesino ora restano e resistono, diciamo, alle richieste anche di essere spostati solo un gruppetto assai esiguo di allevatori e contadini che hanno gli animali nella zona e che quindi non vogliono allontanarsi dai loro animali, perché questo è uno degli aspetti principali dell'economia di questi paesini, che sono così anche anche in alto, parliamo di circa 900 metri sul livello del mare, e che hanno un'economia appoggiata sulla produzione a Castelluccio delle famose lenticchie. E poi ancora vi parlavamo del formaggio, dei salumi, ma parlavamo anche del turismo. Ebbene, questa è una zona dove è di grande attrazione turistica anche per la cosiddetta Fiorita, così come gli altri paesini anche di questa Valnerina, a cominciare dal più celebre ovviamente Norcia con le sue bellezze artistiche. Ebbene, c'è anche una polemica che alcuni residenti hanno voluto condividere con me e con cronisti, e che il fatto che dopo le scosse già ultime diciamo ci sia stata una richiesta a togliere il più velocemente possibile le tende, proprio per non lasciare un marchio diciamo di paese terremotato, quindi rispetto ai turisti. Turisti che io stessa ho incontrato ieri a Spoleto, soprattutto alcuni diciamo presi dalla voglia di scappare il prima possibile, altri invece che accettavano diciamo questo terremoto quasi come fosse una sorta di così di imprevisto avventuroso all'interno del loro viaggio. Sì, poi probabilmente dipende da dove uno proviene, insomma, probabilmente esatto. un giapponese si spaventa di meno di qualcuno che viene da una zona nella quale terremoti non ce ne sono. Allora io intanto ti ringrazio, grazie alla nostra Raffaella Calandra, inviata appunto tra Norcia e dintorni, per il suo racconto. E siamo appunto con Gianluca Pesarini, presidente di Confindustria Macerata. Presidente, innanzitutto io le voglio chiedere un quadro della situazione, se ha notizie dai suoi associati, se hanno particolari problemi, se le sono arrivate segnalazioni di questo tipo. Poi avremo una breve pausa e ritornerò con lei. Insomma, presidente, prego. Allora, noi abbiamo veramente subito danni fortissimi che hanno messo a dura prova il nostro territorio, ma un nostro territorio già legato a una scarsa densità di popolazione. Questo problema che si è venuto a creare con le scosse a seguirsi di giovedì della scorsa settimana e poi quella di ieri mattina, domenica, hanno creato danni alle industrie del territorio, alle industrie che stavano nei pressi di Camerino, Castelremondo, Muccia, creando veramente grosse difficoltà per questi insediamenti produttivi. Ma la cosa importante, e è quella che dobbiamo sostenere, è quella dell'economia locale, perché se non c'è un'economia locale di prima necessità, come possono essere farmacie piuttosto che generi alimentari, piuttosto che barre, è difficile sostenere un territorio, perché è inutile ricostruire su qualcosa che poi non genera economia. Certo, perché lei dice, tra l'altro, mi scusi, con questo diciamo anche, se si cancella questo tipo di economia locale, questi servizi del territorio, si cancella anche la presenza della popolazione sostanzialmente, no? Esatto, infatti quello che noi vogliamo sostenere nei confronti del governo è proprio questo. Noi abbiamo un'industria del turismo molto forte che ha risentito e ne risentirà nei prossimi anni. Abbiamo un territorio che è vocato alla manifattura, che comunque deve essere sostenuto. Abbiamo un'università, specialmente quella di Camerino, anche quella di Macerata, che generavano un'economia nel territorio. Se tutto questo non lo andiamo subito a vedere come spunto positivo per rimettere in moto tutto questo, diventa difficile che ci possa essere futuro per quei territori. Allora noi dobbiamo lottare per far sì che il governo non guardi solamente alla ricostruzione, ma bensì a non far morire l'economia. Noi dobbiamo portarla avanti e la dobbiamo sostenere. Questa è una cosa importantissima. Allora, Presidente, io la interrompo un attimo, le chiedo di aspettare, abbiamo una breve pausa, abbiamo la pubblicità, il meteo, e poi vorrei tornare con lei proprio su questo punto qua. Vorrei capire, secondo lei, visto che tra l'altro è in corso un Consiglio dei Ministri, vedremo cosa ne emergerà, è chiaramente un Consiglio dei Ministri dedicato alla prima emergenza, e quindi a uno stanziamento immediato di aiuti e non, come dire... Non su tutto il quadro generale, anche perché la valutazione dei danni è ancora difficile da fare. Vorrei capire, secondo lei, che cosa dovrebbe fare il governo, che cosa vi aspettate che faccia per tutto questo, ma tutto questo dopo la pausa. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Io ho una struttura ricettiva, e io danni, grossi danni non ne ho avuti, però poi ecco, quello che vedi intorno, la gente sarà difficile riportarla qua perché la paura è tanta. Sarà un grosso impegno, soprattutto dovremo ritrovare la nostra fiducia di continuare a stare su questo territorio e di rimettersi in marcia, ripartire da zero come abbiamo fatto nel 79. Io dicevo a mio figlio qua, che lui ha 18 anni, io nel 79 avevo 17 anni, arrivò il terremoto, ci distrusse tutto. E sono 35 anni che ricostruisco, abbiamo finito di ricostruire, adesso parecchia roba è rimasta in piedi perché l'abbiamo fatta bene, alcune cose che non sono state fatte bene sono ricrollate, adesso sarà mio figlio a, se vorrà, a riviare le redini per poter continuare, ci vogliono energie nuove, gioventù e voglia di fare. È bello anche lo spirito, bello anche lo spirito di questo albergatore di Norcia. Siamo dunque ancora con Gianluca Pesarini, presidente di Confindustria Macerata. Eravamo rimasti un po' in sospeso a dire, presidente, che cosa chiedete, che cosa dovrebbe fare secondo voi il governo a livello di interventi, come distribuire gli interventi a questo punto per far sì che l'economia resti in piedi? Ma secondo noi la prima cosa da fare è quella di aiutare le attività a non morire. Questa è una cosa importantissima, ma non solo attività industriali, come dicevo poc'anzi, ma bensì le attività che riescono a sostenere quegli agglomerati urbani che stanno in quei territori, perché quelli sono territori vocati al lavoro, alle attività, al manifatturiero. Se noi abbiamo degli insediamenti urbani dove ci lavorano i nostri operai, i nostri impiegati, se vengono a mancare, noi a livello industriale ci manca la forza lavoro e sarebbe impossibile fare impresa in quei territori. Noi vogliamo lottare, vogliamo che i nostri territori siano floridi, specialmente in questo periodo dove finalmente dopo 40 anni di attesa, grazie anche a Confindustria Macerata, eravamo riusciti ad avere la famosa strada Civitanova Foligno che ci aveva dato un grosso respiro a livello territoriale. Oggi quindi questi territori li dobbiamo sostenere e il governo, oltre a guardare la ricostruzione, deve guardare benissimo a non far fermare l'economia del territorio. Questa è una cosa importantissima. Allora io la ringrazio, grazie a Gianluca Pesarini, presidente di Confindustria Macerata, e raccogliamo il suo appello, e appunto, come sentite, lo abbiamo diffuso anche in radio e grazie. Torneremo a parlare anche degli effetti sull'economia, appunto, di quello che è avvenuto. Grazie a Gianluca Pesarini, presidente di Confindustria Macerata, per essere stato con noi. C'è poi tutto il tema europeo che riguarda il sisma e che è strettamente correlato alla richiesta di flessibilità che è arrivata dall'Italia. Beh, vi abbiamo raccontato poco fa che l'Unione Europea ha detto e ha fatto sapere, più che dire, che la possibilità di investire in prevenzione per la messa in sicurezza degli edifici con misure antisismiche fuori dal patto di stabilità è già prevista dalla comunicazione sulla flessibilità del 13 gennaio 2015. Un portavoce della Commissione europea, a chi gli chiede se l'Europa sarà meno rigorosa sul budget dell'Italia, dice sotto le attuali regole europee ci sono modi per escludere i costi a breve termine in risposta alle grandi catastrofi naturali. Cioè si può già fare, il governo nemmeno ce lo deve chiedere, sembra dire questo. E comunque dice, a questo punto non speculiamo, qualsiasi costo che potrebbe rientrare nei criteri sarà valutato quando riceveremo tutti i dettagli dalle autorità italiane. La portavoce della Commissione europea, Margaritis Schinas, dice l'Europa resta pienamente pronta ad aiutare la popolazione e le autorità italiane. Sentiamola. I nostri pensieri vanno a tutti coloro che sono stati colpiti dai numerosi terremoti in Italia e ai primi soccorritori che hanno lavorato senza sosta per aiutare chi ha bisogno. L'Unione Europea resta assolutamente pronta ad aiutare la popolazione e le autorità italiane nuovamente colpite dal terremoto. Per ciò che riguarda la situazione attuale, il Centro Europeo di Risposta alle Emergenze, che monitora le catastrofi nazionali ogni giorno, tutti i giorni, è in stretto contatto con le autorità della Protezione Civile su quanto sta avvenendo e che è in continuo cambiamento. Continueremo a monitorare da vicino la situazione e siamo pronti a fornire ulteriori assistenze. Così dunque la Commissione Europea, nella voce del suo portavoce Margaritis Schinas. Parla anche Berlino, che dice: il patto di stabilità ha molta flessibilità che poi deve essere utilizzata intelligentemente. E sul fronte delle deroghe al bilancio, dice, decide l'Unione Europea. Ma Steffen Seibert, il portavoce dell'esecutivo di Berlino, aggiunge anche: in nome del governo tedesco, voglio dire al popolo italiano e al governo italiano ancora una volta che quando e dove possa essere possibile la Germania sarà ancora al loro fianco. Ci sono le dichiarazioni ancora di ieri, immaginiamo che ne arriveranno altre tra poco, del presidente del Consiglio Renzi. Sapremo ricostruire senza sprechi e ladri, danni impressionanti, bisogna ricostruire tutto presto, ma sul tema più strettamente relativo alla legge di bilancio e rapporti con l'Europa, dice Renzi: beh, su questo mi dispiace, non avremo riguardo. Sentiamolo. Tutte le risorse che si renderanno necessarie per rimettere a posto il nostro paese, noi le abbiamo a disposizione, abbiamo lo spazio per poterlo prendere nel nostro bilancio e non abbiamo nessun tipo di riguardo rispetto a regole tecnocratiche che negherebbero l'idea stessa dell'identità del nostro paese e del nostro territorio. Lasciatemi dire che rinnovo l'appello a tutti i sindaci, non soltanto dei comuni interessati, a fare i progetti di adeguamento e manutenzione sismica. Purtroppo il nostro paese è un paese che ha conosciuto in 7 anni 3 terremoti di questa gravità: il terremoto dell'Aquila, il terremoto dell'Emilia-Romagna e adesso il terremoto del centro Italia. Ma se pensate agli abitanti di Norcia, hanno vissuto il 79, il 97 e adesso questo nuovo terremoto. Bisogna tornare a progettare e bisogna fare progetti di qualità. Lo Stato considererà fuori dal patto di stabilità tutte le spese per l'edilizia scolastica e naturalmente per l'edilizia sanitaria. Sì, io tra l'altro non so che cosa si possa fare. Qualcuno propone, ci propone via SMS di acquistare le lenticchie di Castelluccio di Norcia, un po' come si è fatto per Amatrice, con le amatriciane solidali. Qualcun altro mi fa notare: ho detto che lo spirito dell'albergatore che abbiamo fatto sentire è anche bello, non è solo, non è anche, è bello, punto e basta, verissimo, un bellissimo spirito. Ha detto: come abbiamo fatto nel 79, così faremo adesso, è nelle mani di mio figlio, se lo vorrà. Speriamo che questo spirito prevalga rispetto alla rassegnazione che è inevitabile che dopo queste prime ore possa arrivare e possa dominare la scena. Chiudiamo per il momento il capitolo dedicato al terremoto. Se ci saranno aggiornamenti, naturalmente ve li daremo anche dal Consiglio dei Ministri. Intanto una pausa per il traffico e poi la borsa. Stufe, caldaie, termorossi. Una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Focus Economia. Ed eccoci di nuovo per parlare di mercati. Adesso le borse chiudono male nella giornata di oggi. FTSE MIB meno 1,15%, FTSE OSHARE meno 1,01%. Per quanto riguarda le altre piazze finanziarie, Parigi meno 0,86%, Francoforte meno 0,29%. L'America in questo momento è positiva sul Dow Jones, più 0,08%, lo Standard & Poor's 500 guadagna lo 0,23%. Flavia Carletti, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora Flavia, che giornata è stata? Beh, appunto, come dicevi tu, è stata una giornata debole e in qualche modo le borse del vecchio continente oggi hanno un po' scontato quello che Wall Street aveva già scontato venerdì scorso, cioè la notizia della riapertura da parte dell'FBI dell'inchiesta sulle mail mandate da Hillary Clinton quando era segretario di Stato attraverso, diciamo, un indirizzo privato e non quello ufficiale. Quindi questa notizia, unita comunque al calo del petrolio, sono stati i due principali fattori che hanno fatto prevalere le vendite sui mercati europei piuttosto che gli acquisti. Milano poi ha fatto peggio delle altre perché le vendite hanno colpito soprattutto le banche e i petroliferi, che a Milano appunto pesano più che sugli altri listini. La peggiore a Milano è stata Banca MPS, che ha perso il 7,39%, con Mediobanca, che è suo advisor per l'operazione per reperimento di nuovi capitali, che ha perso il 4,78%, e poi sono andate male appunto anche i petroliferi, proprio che hanno pagato il calo del WTI, che adesso in questo momento sta scendendo di oltre il 3% e si sta riavvicinando ai $47 al barile. Sì, siamo sui minimi da un mese, mi pare, per quanto riguarda il petrolio, no? Sì, esattamente. Diciamo che tutto quello che era stato recuperato nel mese di ottobre, quando il petrolio era salito anche sopra i $50, oggi in queste sedute lo sta riperdendo. In particolare oggi, appunto, in questo momento proprio perde il 3,14%. Questo il quadro generale. Come dicevi, molti bancari negativi, appunto, Monte dei Paschi -7,3, Mediobanca -4,7, Unicredit -3,8, Fineco Bank -3,62, Popolare Milano -3,04, Banco Popolare -2,96%, Intesa San Paolo -2,5, e come si diceva parecchi petroliferi, Saipem -2,85, Eni -2,25%, Tenaris -2,28. I titoli che vanno peggio sono tutti riconducibili a questi due settori, mi sembra, Flavia, come esattamente ci dicevi. E va ancora bene invece oggi ST Microelectronics, che oggi chiude con un rialzo del 3,33%, è il terzo giorno di fila, se non sbaglio. Esattamente, da quando ha pubblicato i conti trimestrali il titolo è salito e ha recuperato più del 18%, e il mercato ha festeggiato proprio questi conti e soprattutto le previsioni per gli ultimi tre mesi dell'anno. In particolare il gruppo si aspetta di chiudere i quattro mesi dell'anno con una crescita rispetto al trimestre precedente, cioè al terzo, del 3,2% come ricavi, e anche di raggiungere un margine operativo lordo pari al circa il 37% dei ricavi, e in qualche modo queste indicazioni sono state viste positivamente dagli analisti. E in più un altro fattore che continua a sostenere il titolo è il fatto che due grossi gruppi automobilistici come Volkswagen e BMW hanno detto che vogliono portare il mix di auto elettriche al 20% della loro produzione entro il 2025, e quindi questo fa aumentare le stime di crescita di un segmento di chip che produce ST Microelectronics, che ha il 15% del mercato globale dei semiconduttori di potenza usate dalle auto. Quindi se aumenta, diciamo, l'equazione fatta dagli analisti è: se le case automobilistiche aumentano in maniera sensibile la produzione di alcuni tipi di vetture che vedono ST come potenziale fornitore, a quel punto anche le prospettive per il futuro possono essere positive. Certo, certamente, quindi per una volta, diciamo, un ragionamento strettamente industriale alla base, come dire, di una decisione di mercato. Bene anche Fiat Chrysler oggi, che guadagna l'1,14%. CNH, che oggi tra l'altro ha annunciato un'acquisizione importante, invece non va particolarmente bene, no? Sì, esattamente, diciamo, in quella che è la Galassia XOR, CNH è un po' è andato un po' al contrario rispetto appunto a Fiat, che ha fatto più la stessa XOR più 0,75, perché alla fine ha chiuso con lo 0,35%, recuperando comunque dai minimi, però ha un po' pagato quelli che sono stati i risultati dei primi nove mesi dell'anno, perché nel periodo gennaio-settembre il gruppo ha chiuso con perdite nette di $345 milioni, pagando in particolare gli oneri straordinari per $551 milioni a seguito della chiusura della transazione con la Commissione europea sull'indagine per la concorrenza in merito ai veicoli commerciali. Abbiamo parlato di banche in generale. Ti chiederei in volata, perché siamo quasi in chiusura, dell'andamento in generale negativo di tutto il settore bancario. Ce ne sono tre invece che vanno male anche per motivi specifici, mi sembra di aver capito, e si tratta di UBI, Carige e Credito Valtellinese. Beh, in particolare Carige, di queste tre, diciamo, è quella che ha pagato di più, ha perso il 6-16%, è stato uno dei peggiori tra i bancari, se non proprio il peggiore, perché mercoledì ci sarà il Consiglio di Amministrazione che dovrà rispondere a quelle che sono state le indicazioni della Banca Centrale Europea sulla vendita dei crediti, quelli problematici in portafoglio, e il timore degli investitori che anche se il gruppo affronterà questa vendita di non performing loans, poi potrebbe non riuscire a rispettare i target fissati dalla Banca Centrale Europea in termini di coefficienti patrimoniali e quindi magari aver bisogno di nuovi capitali. Mentre invece per il Credito Valtellinese si aspettano novità su possibili integrazioni, perché viene vista come in qualche modo sposa ODB però della Popolare di Sondrio, però queste cose non entreranno nel vivo se non nel 2017, quindi adesso c'è un po' forse mancanza di appeal da questo punto di vista, mentre invece UBI Banca, che è stata comunque una di quelle bancarie che ha limitato di più i danni, viene data di nuovo come forse vicina all'acquisizione di tre banche di quelle quattro che erano state commissariate alla fine dello scorso anno. Sì, poi alla fine in realtà UBI Banca, dopo essere stata piuttosto negativa nell'arco della giornata, ha chiuso con un calo dello 0,08%, quindi praticamente in parità. Grazie comunque a Flavia Carletti di Radio Corriere del Sole 24 Ore per averci aiutato a districarci anche in questa giornata di borsa. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire GR24 nella seconda parte della trasmissione. Inizieremo la marcia di avvicinamento alle elezioni americane, anche con i dati che sono arrivati sul PIL americano, e poi ci occuperemo della parte fiscale della manovra, tanta roba. A tra poco. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10:30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche la nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10:30. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. I tassi a zero e la volatilità di borsa, i rischi e le nuove opportunità di investimento. Cosa cercano davvero i risparmiatori? Il 18 novembre alle 18 partecipa a Investire Informati Live, l'evento di Radio 24 che si terrà presso la sede del Sole 24 Ore in via Monterosa a Milano. Troverai tutte le risposte insieme a Deborah Rosciani e agli esperti della rubrica Investire Informati. Prenota la tua partecipazione su radio24.it. 18 novembre, ore 18. Più informazione, meno sorprese. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo in diretta 349-238-6666 per i vostri sms. Al microfono sempre Simone Spezia per questa seconda parte di Focus Economia. Mentre continuano ad arrivare aggiornamenti sul terremoto, è iniziato intanto il Consiglio dei Ministri che dovrebbe stanziare i soldi per la prima emergenza. Il ministro degli esteri Paolo Gentiloni dice che l'Italia ha bisogno della comprensione europea, come sapete il tema dell'extra deficit, per affrontare queste spese. E mentre arriva notizia che oggi lo spread, ossia la differenza di rendimento tra i BTP a 10 anni e i Bund, ossia le obbligazioni di Stato tedesche a 10 anni, ha toccato i massimi dal referendum sulla Brexit dello scorso giugno. Il differenziale è salito fino a 154 punti per poi assestarsi intorno ai 150, e alcuni analisti attribuiscono questo all'incertezza sul referendum costituzionale. Beh, c'è un'altra incertezza che domina in queste ore tutto il pianeta e che riguarda ovviamente anche l'economia. Siamo a 8 giorni dalle elezioni americane. E il testa a testa, dopo le rivelazioni del capo dell'FBI James Comey, il testa a testa si fa più stretto tra Trump e Clinton, quando sembrava che ormai Clinton avesse preso il volo. Questa marcia di avvicinamento di Radio 24, che comprende il consueto appuntamento di America 24 tutti i giorni alle 13.45, che comprende un viaggio realizzato dalla redazione che va in onda nei GR. Tocchiamo l'argomento anche oggi in Focus Economia, lo facciamo con Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Mario, ciao, buonasera. Eccoci qua. Allora, mi sembra che oggi anche Wall Street abbia risentito, no, di questa nuova ondata di incertezza per quanto riguarda la vittoria. Devo dire, la cosa più interessante è che Wall Street reagisce male se Hillary fa male, e questo è un fatto nuovo, perché in genere Wall Street era favorevole a che ci fosse un candidato repubblicano che poteva ridurre le tasse. Invece in questo caso la cosa non funziona. Devo dire, in questo momento siamo in territorio positivo, però siamo in territorio positivo veramente marginale, non c'è stata quella ripresa che poteva esserci dall'idea di una stabilizzazione del post-scandalo FBI, di cui tu parlavi prima. Cioè, questa bomba che è esplosa dell'FBI ha improvvisamente rafforzato Trump e indebolito Hillary, e i mercati, soprattutto venerdì, sono andati molto male. Siccome, come si dice, the jury is out, e quindi non si è capito ancora come andrà a finire questa storia, i mercati sono straordinariamente prudenti sul negativo positivo, cioè più 0,05. Ecco, parliamo sì. di fatto di stabilità. Quello che conta in realtà è che Trump si sta rafforzando, resta debole rispetto a Hillary. Ti faccio un paio di esempi, perché ti ripeto, poi come dicevi tu stesso, questo quadro di fondo ha un impatto diretto sul mercato. Allora, le famose probabilità di vittoria. Sì. Una settimana fa Hillary aveva 84,5% di probabilità di vittoria e Trump ne aveva appena 14-15. Ieri Hillary ha sfondato al ribasso la quota dell'80%, in questo momento al 77,8%. Sì. Scusami Mario, ti interrompo. Mario, perdonami, ti interrompo solamente per chiarire con gli ascoltatori che queste percentuali non sono sondaggi, sono appunto probabilità di vittoria. Cioè, non, in questo caso non è che si chiede a qualcuno chi vuoi votare, Clinton o Trump, e da là desumi una percentuale. È un'altra cosa, cioè quanto si ritiene probabile che uno diventi presidente degli Stati Uniti oppure no. Prego Mario, prosegui, scusa. Esatto, sì, è la probabilità di vittoria, tanto per chiarire, è calcolata su che cosa? Sulla base delle posizioni dei singoli candidati in ciascuno Stato, non sul voto popolare, perché il voto popolare, come sappiamo, in America conta fino a un certo punto, nel senso che ci sono dei grandi elettori che vengono espresse dalle vittorie dei singoli Stati. Perché parliamo sempre degli swing states, degli Stati chiave? Perché sono quegli Stati che hanno un numero elevato, diciamo, di grandi elettori e che possono fare la differenza nel conteggio finale. Arrivo in questa spiegazione tecnica ai grandi elettori. Quanti sono i grandi elettori che ha in questo momento Hillary? Più o meno, questo anche sulla base di stati sicuri, ti faccio un esempio, la California, sì. Hillary la vince di sicuro, e la California ha 55 voti elettorali, mentre invece Trump vince di sicuro il Wyoming, al 98% vince Wyoming e ha 3 voti elettorali. oppure vince l'Oklahoma, dove ci sono 7 voti elettorali. Certo. Se si vede la mappa di distribuzione, si vede che Trump è ben posizionato in un certo numero di stati, Hillary è ben posizionato in altri stati. Il conteggio totale che viene attribuito a Hillary è di 317 voti elettorali, sì, contro 219 di Trump. Per vincere ce ne vogliono 270. Ecco, Trump è riuscito a migliorare di molto questa sua posizione, ad accorciare queste distanze. Si tratta di capire se in questi 10 giorni riesce davvero a invertire questa curva o no. Il semplice fatto che io e te siamo qui a parlare di questo, significa che c'è un'incertezza. Il messaggio di incertezza ai mercati non piace, perché si erano già strutturati attorno all'idea che ci sarebbe stata Hillary Clinton e non comunque l'incertezza di Trump, perché anche se Trump abbassa le tasse, come ti dicevo all'inizio, sì, è comunque un elemento di totale... un elemento destabilizzante all'interno del sistema americano, anche solo per quello che rappresenta politicamente, no? Sì, perché non si sa dove, è un elemento ignoto, non si ignoto sa che cosa combina e dove va, capito? Quindi questo allora... Allora Mario, ti interrompo un attimo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi ti vorrei portare, perché poi venerdì non abbiamo avuto il tempo, a commentare brevemente i dati sulla crescita americana che sono arrivati proprio nella giornata di venerdì, che sono dei dati positivi ma con alcuni caveat e su questi vorrei soffermarmi con te, tra un attimo. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi ti conviene. Vi presento Focus Economia. Ed eccoci di nuovo per chiudere con Mario Platero in diretta da New York all'inizio di questa settimana che ci porterà alle elezioni americane. Mario, il punto dal lato della crescita americana che ha stupito favorevolmente gli analisti, questo va detto. E però mi sembra di aver capito che i segnali che arrivano in particolare dai consumi non sono particolarmente confortanti. Diciamo che i consumi, non possiamo avere una crescita di questo genere, cioè una crescita, ripetiamolo, del 2,9%, perché la crescita del terzo trimestre è stata molto forte, poi potrà essere corretta al ribasso o al rialzo, non lo sappiamo, però abbiamo avuto un percorso di crescita che tra l'altro è abbastanza simile a quello che abbiamo visto negli anni scorsi, cioè un primo trimestre molto debole, addirittura lo 0,4-0,5%, qualcuno temeva che potesse andare anche in territorio negativo. Un secondo trimestre debole, 1,2% circa, e poi all'improvviso questo 2,9%, che riporta il tasso di crescita medio, diciamo, se andrà così anche per il quarto trimestre, intorno al 2,1-2,2%. Quindi un tasso di crescita buono. I consumi rappresentano ormai l'80% dell'economia americana e dunque c'è stata una tenuta di fondo dei consumi, altrimenti non avremmo potuto avere questa crescita che abbiamo avuto. Però c'è un problema, c'è il problema del reddito degli americani, un reddito che non cresce, un reddito che resta piuttosto debole, cioè da una parte si crea occupazione, dall'altra non c'è l'accompagnamento di quell'aumento di salari e di stipendi che si ha in genere quando si raggiunge un tasso di disoccupazione, quello che abbiamo adesso, attorno al 4,9-5%. Cioè, quando si scende a quei livelli, a un certo punto i salari cominciano a salire e dunque poi c'è il discorso del rischio di inflazione e così via, e quindi la Fed che interviene, eccetera, eccetera. Però questo non succede perché c'è una grande sacca, ed è questo il problema reale, di disoccupati che ormai si sono disaffezionati al mercato del lavoro e restano fuori dal mercato del lavoro. Quindi noi abbiamo un dato di disoccupazione che è positivo, abbiamo il grosso degli americani che tiene sui consumi, ma abbiamo una sacca di americani, di milioni e milioni di americani che resta fuori dal mercato del lavoro e che quindi rende vulnerabile il tasso di crescita americano, per cui è un 2,9%, ma se avessimo avuto una dinamica completa come abbiamo avuto in passato, questo tasso poteva essere del 4%, del 5%, e questo non succede più. da tempo, non abbiamo mai avuto tassi di questo genere in questa ripresa lunga, quindi abbiamo una ripresa che continua da molto tempo, una ripresa piuttosto lunga nel tempo, perché parliamo ormai, siamo all'ottavo anno di ripresa economica, però una ripresa che è rimessa sempre intorno al 2%. Sì, non è mai un balzo, non è mai un balzo vero come in passato è stato per l'economia americana dopo le recessioni. Che ti porta al boom, al benessere, sì. E capisci che ti porta a quella, e per cui la conseguenza qual è? È il malcontento generalizzato, e qui ci ricolleghiamo al quadro politico con cui siamo partiti, il fenomeno Trump che raccoglie quelle vaste fasce della popolazione, soprattutto i cosiddetti uomini bianchi arrabbiati che hanno perso il loro posto di lavoro, che lavoravano nelle miniere del carbone, dei Monti Appalachi e così via, i quali sono insoddisfatti, come molti sono insoddisfatti da noi. Forse lo sarebbero meno se avessimo in Europa tassi del 2% comunque. Certo, e sentendosi esclusi dal mercato da come sta funzionando l'economia americana, ovviamente si rivolgono a questo voto che è anche un voto di protesta. Io ti ringrazio, grazie a Mario Platero, corrispondente del Sole 24. Simone, a prestissimo. Grazie Mario, ti risentiamo domani alle 13.45 in America 24, come sempre. Noi adesso, a chiudere, dulcis in fundo, si fa per dire, ci occupiamo di fisco. I wanna be free, set free. Colgo l'occasione intanto per dirvi che domani la seconda puntata della Guida alla Manovra, in uscita domani con il Sole 24 Ore, è dedicata ai bonus fiscali per gli investimenti. E intanto però saluto Salvatore Padula, vice direttore del Sole 24 Ore. Bentornato ai nostri microfoni. Ciao. Ciao Simone, ciao. Buonasera. Allora, oggi proprio sulle pagine del Sole 24 Ore, nel quale parlate di una manovra in tre tempi, dal punto di vista fiscale appunto, perché c'è il disegno di legge di bilancio, il decreto fiscale, altre cose che potrebbero arrivare dopo, tu firmi un commento, un'analisi per così dire, su quello che è il quadro generale, su come si sta muovendo il governo dal punto di vista fiscale. Mi sembra che ad ogni manovra torniamo un po' sempre a bomba, no? Si fatica a vedere un disegno complessivo, cioè si coglie qualche segnale di cambiamento, qualche elemento anche importante e anche di peso, no? Come l'abolizione di Equitalia, e però è sempre un po' un disegno complessivo che manca. Ma sì, guarda, in realtà quello che a me interessava fare, quello che ho fatto sul giornale, e mi sembra una chiave interessante, è quella di andare a capire come le tantissime norme in materia fiscale che stanno arrivando, tu hai detto bene, decreto legge, disegno di legge e altre cose che si annunciano, come questo pacchetto di 50-60 norme, mi sembra di ricordare, vanno a intrigarsi con una riforma, con l'attuazione di una delega fiscale che abbiamo portato a termine qualche mese fa. Allora, l'obiettivo di quella di 11 decreti legislativi che sono serviti ad attuare in parte la delega fiscale, servivano per immaginare di avere un fisco più equo, un fisco più trasparente, che significa anche un fisco più semplice, e un fisco più orientato alla crescita. Allora, io sono andato a vedere un pochino, come tutte queste norme fiscali che stanno arrivando adesso rispondono a ognuno di questi tre elementi. E succede un po' quello che dici tu, cioè come sempre poi si perde un po' la rotta, perché a mio avviso quella che arriva è certamente una manovra che contiene molti elementi attenti a un fisco più preparato a interpretare le nuove esigenze degli operatori economici, delle imprese, dei professionisti, eccetera. Quindi questo bisogna dirlo, l'IRES, che è l'imposta sul reddito delle imprese, quest'anno scenderà dal 27,5%, quest'anno, dal 2017, scenderà al 24%, che è un livello mediamente basso in Europa, e ricordo che nel 2000 da noi in Italia stava al 37%, quindi siamo 13 punti indietro rispetto a 16 anni fa. Sono state confermate le norme sui superammortamenti, arrivano altre norme che hanno la finalità di stimolare anche un pochino il tessuto produttivo a investire, perché c'è qualche vantaggio fiscale in più, eccetera. Sul fronte delle semplificazioni e dell'equità, invece, mi sembra che ancora una volta si perda un po' la rotta, perché sulle semplificazioni addirittura c'era tutto un pacchetto di interventi per le semplificazioni che al momento non sono state presentate, arriveranno probabilmente come emendamento. Ricorderete che si è parlato di un intervento per, diciamo, utilizzare, consentire ai contribuenti di utilizzare in modo diverso gli studi di settore, e anche questa cosa per il momento si è persa. Il Ministero ha detto che sono cose che verranno recuperate, immagino nella conversione o del decreto in legge o del decreto legge o del disegno di legge di bilancio, però insomma per il momento non ci sono. In più vengono introdotti dei nuovi obblighi, promettendo la soppressione di studi, elenchi clienti fornitori e altre cose, però come sempre insomma si fa un po' il gioco delle tre carte, no? Si promette, cioè metto un altro obbligo e te ne tolgo uno, e quindi è uguale, nel caso specifico ne inseriscono due e ne tolgono uno, quindi insomma non mi sembra che sia proprio una manovra che abbia nell'obiettivo della semplificazione uno dei suoi obiettivi principali. E poi c'è, secondo me è giusto sottolinearlo, c'è un tema di equità, cioè dal punto di vista dell'equità è una manovra che contiene due elementi, il prolungamento della voluntary disclosure e questa, diciamo, sanatoria sulle cartelle esattoriali, che sono per definizione, diciamo, un elemento di iniquità, perché sono inique rispetto a tutti, e sono tanti i contribuenti che nel passato si sono comportati bene e che non hanno bisogno adesso di utilizzare nessuna sanatoria. Quindi, concludendo, diciamo, molto bene secondo me la parte crescita, sviluppo, investimenti, lì si vedono delle cose positive che proseguono anche un discorso iniziato negli anni passati. Così e così sulle semplificazioni, direi invece un voto che io direi insufficiente dal punto di vista dell'equità. Io ti ringrazio, grazie a Salvatore Padula, vice direttore del Sole 24 Ore, per essere stato così chiaro e aver definito, come dire, in tre voti sostanzialmente gli elementi fiscali della manovra, almeno per il momento. Vedremo poi che cosa succederà appunto con la conversione in legge del decreto, già ce lo diceva, per esempio dal lato degli studi di settore, altro elemento importante. Chiudiamo qua questa puntata di Focus Economia. I ringraziamenti vanno per la parte tecnica a Michele Previato e Valeria Bernardi. C'era in regia a Milano, se non erro, no. Roberta Frisani in regia a Milano, dunque Lorenzo Rotella e Barbara Bianchi in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre, tutti voi per l'ascolto. Noi ci risentiamo domani alle 13 con Effetto Giorno. Una buona serata da Simone Spezia.